Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il costo alle stelle della benzina e del gasolio ha convinto una massa di automobilisti come non si era mai vista a puntare su metano e GPL, due gas che possono facilmente sostituire la benzina, che inquinano meno, hanno emissioni di CO2 inferiori rispettivamente del 23 e del 13% ed emissioni inquinanti veramente bassissime. Inoltre costano anche meno questi combustibili. Il risparmio a parità di percorrenza va dal 60% del metano a circa il 50% del GPL, poi in realtà è un po' meno perché nessun veicolo va sempre a gas, ma il risparmio resta comunque elevatissimo. Sta di fatto che mentre i veicoli a benzina possono essere convertiti facilmente a gas, per quelli diesel la cosa non è affatto facile. Serve mettere mano pesantemente al motore, trasformandolo praticamente in un motore a benzina, e di solito il gioco non vale la candela. È una bella scocciatura perché, come è noto, gran parte delle flotte, da quelle dei corrieri postali a quelle dei mezzi per il trasporto pubblico, sono alimentate a gasolio. Insomma, i veicoli che passano più col motore acceso, che inquinano di più e che più beneficerebbero della conversione a gas, non possono approfittarne. Ebbene, come avrete intuito a questo punto, c'è una novità proprio in questo campo. L'idea è venuta a Landi Renzo, società ben nota che produce sistemi di conversione a GPL e metano destinati sia all'utente finale che alle case automobilistiche. E a trovarci è venuto il responsabile delle relazioni esterne, Corrado Storchi. Buonasera, Storchi. Buonasera. Allora Storchi, iniziamo proprio dalle basi. Perché un motore diesel non può funzionare alimentato a metano? Beh, c'è una combustione diversa dei due carburanti, quindi occorre una modifica veramente radicale del motore per permettergli di funzionare a metano. Un'esperienza fatta ad esempio con alcuni autobus a Torino, ricordo questa esperienza di qualche anno fa, ma è chiaro che se si andasse a intervenire su mezzi commerciali leggeri piuttosto che su autovetture, il rapporto tra il costo di questa conversione e i benefici non sta in piedi. Favorevole. Il motivo è proprio che i motori a benzina hanno la candela e i diesel no, perché nei diesel la miscela si accende per compressione. Siccome il metano non esplode per compressione, bisogna aggiungere le candele ai motori diesel. In pratica bisogna ribaltare tutto, no? È questo che costa veramente moltissimo. Ecco, voi allora come avete superato questo problema? Come avete fatto a lasciare così com'è la meccanica del diesel, ma a fargli digerire anche il metano? Ma noi abbiamo lavorato proprio sulle combustioni dei due carburanti, cercando di ottimizzare, per così dire, la collaborazione fra i due carburanti stessi miscelati, ottenendo quindi una soluzione che abbiamo omologato la scorsa estate, due soluzioni per la verità, una per i mezzi commerciali leggeri e per le autovetture e una seconda per i mezzi più pesanti, ad esempio gli autobus. Quindi abbiamo permesso ai due carburanti di miscelarsi, di trovare una combustione così equilibrata. Praticamente il diesel fa da detonatore, cioè rimane un po' di gasolio dentro che esplode per compressione e quindi il metano gli va dietro. Possiamo dirla così? Sì, anche se dobbiamo chiarire che la percentuale di miscela del metano con il diesel va, per quanto riguarda il metano, da un minimo del 40% a un massimo del 60-65%, quindi c'è una forchetta. Di fatto chi utilizza questa tecnologia dual fuel utilizza mediamente per metà diesel e per metà metano, a livello di quantità, chiaramente miscelati. Ecco, e quali sono i risultati, diciamo così, in termini sia di riduzione dell'inquinamento che anche di riduzione dei costi di gestione? Ricordiamo, il metano costa molto meno, ma molto meno anche del gasolio. Sì, parlavo prima di due soluzioni. Allora, iniziando dalla prima, quella che riguarda le autovetture e mezzi commerciali leggeri, riusciamo in questo modo a ottenere un 15% di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, di CO2, un 60% di particolato, che è l'imputato numero uno per quanto riguarda l'inquinamento nella grande città. L'aspetto della salute, diciamo, sì? Esattamente. Un risparmio economico del 15% e un aumento della percorrenza chilometrica pari al 20%. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece la soluzione destinata agli autobus, in questo caso abbiamo una riduzione del particolato che va dal 40 all'80% a secondo della tipologia di mezzo applicata e anche di mezzo. E abbiamo una riduzione del CO2 sino al 14%, abbiamo un risparmio economico sino al 27%. E insomma, comunque, tutti numeri piuttosto interessanti. Avete già cominciato una prima sperimentazione sul campo qui in Italia, no? Sì, abbiamo avuto qualche esperimento nella città dove il capogruppo del gruppo è, cioè Reggio Emilia, con degli squalobus, ma indubbiamente esiste un progetto ancora più vasto con la municipalizzata di Perugia e dove abbiamo convertito con tecnologia dual fuel alcuni autobus che sono prettamente circolanti, che caricano persone, quindi non sono esperimenti veri e propri, ma sono mezzi in servizio completo. Ecco, tra l'altro, oltre a gasare questi mezzi si può fare anche altro, vero? Voi state lavorando anche in altre direzioni, sempre per intervenire su qualcosa di esistente e renderlo più efficiente, più smart, appunto. Sì, noi negli ultimi anni abbiamo fatto molta esperienza, perché quando le case auto hanno iniziato a offrire modelli a GPL a metano, diciamo di primo impianto, cosiddetto primo impianto, noi siamo stati scelti dalla maggior parte di queste come principale partner. Questo ci ha fatto fare molta esperienza negli ultimi anni. L'esempio di dual fuel che facciamo prima è stato il primo caso, già omologato. Ora stiamo sperimentando una nuova tecnologia che consentirebbe di ibridizzare qualsiasi tipo di automobile, che sia un'automobile già alimentata a gas, che sia un'automobile alimentata a benzina oppure a diesel, potremmo renderla in retrofit, diciamo così, ibrida. Quindi si potrà rendere ibrida anche la propria auto che magari si possiede da un anno, due anni, tre anni. E quindi addirittura è possibile, magari su mezzi un po' grandicelli, proprio come i bus, perché se no lo spazio che se ne va è moltissimo, anche fare tutte e due le cose. Cioè possiamo immaginare a breve di avere in giro, no, un po' di mezzi che sono sia bifuel che ibridi? Assolutamente, questo sì, mix. Questa è una tendenza che vediamo anche nella proposta di case auto, cioè oggi il ventaglio di tecnologie è molto più ampio rispetto a 10-15 anni fa. La collaborazione di queste tecnologie evidentemente non può che dare risultati ancora migliori rispetto a quello che il mercato offriva sino ad oggi. Grazie Corrado Storchi. Prego, grazie a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana.